meglio di prima, perché prima magari per avere questi segnali ti doveva aiutare, in questo caso stai andando, che è una meraviglia. La stessa cosa devo dire di Marino, anche se lui è un po' più lontano, però l'ascolto perfettamente, un segnale di nuovo, radio 5 è perfetta. Di nuovo Maria a te. Ok, che riprendo così dal profitto che mi sta chiamando mio nipote. Ok, ciao, vabbè, ben sentito, dopo tanto, vabbè, io già ti ascolto sulle frequenze, perché io sono SVL, ti ascolto abbastanza bene a te e gli altri amici di casa. Bene. Ciao anche Antonio, ben sentito, saluto in casa. Ci sentiamo domani se coincide. Antonio, riprendi e per me come senti, dai. Ciao Marino, ci sentiamo alle prossime. Ciao, avanti Roberto. Fra poco ho cambiato radio, questa è la mia solita facendo. Scusa Antonio, sei stato adesso, Roberto? Sono già, ho visto lo strumento tutta la, questa è la radio mia. Comunque il livello tuo effettivo sono quasi 9.20, Antonio Marino 9 spaccato. Questa è un'altra tipologia di radio, comunque ti ascolto molto meglio con questa perché ho il coso, come si chiama? L'altro parlante esterno, in quel caso ero con l'altro parlante, ecco. Vabbè Marisa, ci sentiamo, spero quanto prima, buon tutto, buona serata e buona giornata domani, se per caso devi lavorare. Vai a tu. Un altro, ti chiedo scusa, Robè, 9.10 se ne vanno adesso, poi la radio è sattura, non si capisce nulla, Roberto. Sattura, aspetta, forse non mi sono accorto che qua ho fatto qualche cosa, aspetta un attimino, cosa sta succedendo qua? Aspetta, è ancora male, sto urlando. Forse stavo usando in manda amatoriale, quindi. Aspetta che forse qua c'è qualche problema, guarda un po' adesso, sì, forse stavo, non me ne sono accorto, ho toccato i tasti, no, questo è il segnale mio normale, eccoci qua. E radio, neanche uno era come radio. Neanche uno, aspetta un pochettino, ma perché è troppo bassa? Maria, guarda un po' adesso. Adesso c'è Roberto. Non mi sono accorto, siccome come l'ho spostata ancora lì, poco fa ho cambiato il cavo d'antenna per attaccare quell'intec, ho toccato tutto, sia microfono che potenza, adesso è lui, dovrebbe essere il su, sì, la potenza, il mic gain uguale, fammi vedere più o meno sì, poco meno, ma non è troppo forte la radio così? Bellissima, super sì. Segnale quanto è adesso? Poco fa stavo saturando, mi sono accorto che stava spingendo troppo. Esatto, 9, segnale 9.10, vabbè, 9.10 adesso. E la radio super chiusa. Te ti ascolto un po' più forte, adesso sei quasi 9.10 con i picchi, Mari. E tu usando sempre la solita palizio, Lo dico di ficcare, dai, con calma. Ok, dai, buon tutto, dai, vai Anto, riprendi tu. Non vedo quando stavo la via. Anto, riprendi per me chiudi, dai, ciao, noi sentiamo, ciao. Ciao Marino, ci risentiamo. Ciao, alle prossime. Vogliono un giorno senza sentirti. Infatti, ma sono sempre impegnato, sto sempre facendo qualcosa, poi sto facendo anche operazioni qua in altre bande, dai, per vedere, per fare qualche cosa. Cosa ti volevo dire? Ma ho visto che stai lavorando forte, Antu. Stavo lavorando un attimo, devo andare in campanone lo stesso. E quando lavoro, quando non lavoro, sto a casa. L'estate ho visto militato tante cose, ho visto tante manifestazioni, tanti concerti avete fatto. Sì, umbe. Avete fatto anche Piazza d'Italia? Cappa. Piazza d'Italia, Alghero, Ligabue. Ah, Ligabue l'avete fatto voi? E certo, mica la affidano a ditta del capolo, affidano a ditta seria. No, ma dico, come avete fatto? In contemporanea due concerti avete fatto? Abbiamo affittato la roba da fuori. E che potenza c'aveva? No, per capirci, Ligabue, quanti watt c'aveva? È un bel. Abbiamo affittato l'acustica e il K2. Quanti watt sarebbero più o meno? 30.000, 40.000 watt, quanto ne aveva? Sì, di più pure. E quello di Sassari invece, però magari non è necessario avere quelle potenze. No, quello di Sassari non più di tanto. E ma già toccava io. Però il problema, quando sei così ravvicinato con tutta la gente, tutto i palazzi intorno, è molto difficile avere la perfezione, mentre Alghero sei tutto aperto, non hai palazzi che ti danno fastidio, per cui la qualità sonora è molto meglio. Per qualcuno un po' si è lamentato, dice c'era un po' di rimbombo, perché c'è il monumento davanti, poi i palazzi e tutto quanto, è molto difficile trovare l'acustica perfetta. Ma no, dico, il suono era perfetto, perché il suono viene calibrato, rimbombo da lontano, ma da vicino lo senti bene, è un sistema là in reghe, è una cosa complessa. Poi a tutti dinni che quando ci sono gente importante, il nostro principale Alberto c'ha l'analizzato di spettro, lo misura, sa cosa stanno erogando, sa come sta uscendo, lui tiene tutto sotto controllo. Ma era presente perché cosa, Alberto Erra? Come? Alberto Erra era presente alla manifestazione di Sassari. È un grido, via. E ad Anger invece ha noleggiato le attrezzature? Sì, perché non avevamo quella roba, ma malto, un milione e mezzo di euro costa l'acustica. Lo so, quando parli di così, chissà cosa c'era a Olbia, figurati, cioè a Olbia c'erano 50.000 persone, c'era un impianto di amplificazione, a parte che un'area molto più ampia di tutte le altre, di Alghero, di cosa. Anche se devo dire, Alghero l'ho visto, era una bella cosa nel senso, la televisione non sono andato mica a vederlo, però Olbia era allucinante, fare un concerto con un zucchero, non è che lo fai tutti i giorni, no? E a Futidini, pure Rigabue, è una cosa, 50.000 persone c'erano. Sì, sì, no, però l'impianto acustico che hanno utilizzato per Zucchero un pochettino più grosso, perché il campo acustico, cioè il campo che dovevano coprire era molto più grande che Alghero. Non ti credere, no. C'avevamo anche i ritorni, c'avevamo anche noi. C'avevamo quattro torrette di ritorni, cioè praticamente altre audio c'erano sopra. Ah, quindi anche lì non si scherzava. E poi l'estate avete fatto, che cosa avete fatto? Che concerti avete fatto? Perché non ho capito che mia moglie. Ho detto, d'estate, che concerti, che persone c'erano? Che... Gianni Morandi, Biagio Antonacci. Ah, e te Gianni Morandi avete fatto? Certo, la Monti di Giamma in Rastri. Chi? Non ho capito tu? Sai che me lo devo ricordare. Davon Travel, ne abbiamo fatto dei concerti un bel po'. Molto impegnativo, io lo so, molto sfacchinata, ti fai il mazzo per dire 5-6 ore, poi stai a riposo e poi tornare a capo, riparti, c'è anche un amico lo stesso lo fa, il lavoro tuo, una sfacchinata in mano, perché oggi sei a Sassa e domani vai a Alghero, dopo domani vai a cosa, devi stare veloce, non hai tempi di recupero. Quello è il lavoro. Però tanto tu già sei abituato, già il lavoro che facevi prima non era da scherzare lo stesso, quando cominciavi a caricare non era uno scherzo, adesso forse più passionale, più divertente, però anche qua non si scherza per la fatica. Ci vogliono gli attributi per fare quelle cose, soprattutto quelle cose che facciamo noi, ci vogliono gli attributi sotto. Ma ti piace il lavoro, lo fai con passione o lo stai facendo perché non riesci a trovare altro? No, a me piace la musica. No, parlo la musica, però la musica se l'ascoltano gli altri, tu gliela devi comporre. No, già piace, anche a me piace. Ma ti arrampichi pure nelle tour di tutto quanto o solo, come si chiama, la roba in terra? Non posso, devo avere il coso per prendermi nell'aria, come il punteggio. Il coso, il patentino deve avere, sì. Per cui tu, meno male, lavori solo nelle quote basse, dai, è meglio così, perché quando ti arrampichi c'è sempre di mezzo l'imprevisto, dai. Ti addo di piazza, c'ho anche il casco, c'ho. Sì, no, lo so che deve stare legato, però non è comodo arrampicare, tirare, gli sforzi sono molto maggiori. Ne abbiamo due che fanno questo lavoro qua, ma uno è Marco e l'altro è cosa, Gabriele. C'è Antonello, un amico mio, lo stesso, ma non so se lavori col gruppo vostro, aspetta come si chiama, forse Usai può essere. Non lo so, Antonello chi? Mi sembra che si chiami Usai, è un carissimo amico, però il cognome, ce lo so, perché chiama Antonello, è stato inquilino di mio padre, un bravissimo ragazzo, un grande, grande persona. E poi c'è anche Gavino, l'altro CB che sta qua ogni tanto. Come fa? L'impianto audio se lo gestisce lui. Che avanti qua su 10. È entrato uno fortissimo qua, non ho capito, la senti tanto? No, 9.40 è arrivato qua fortissimo, forse qualcuno che ne ascolta, che se lo gestisce lui l'audio, lì, dove lavora lui. No, ma in gamba, Antonio è un ragazzo stesso. Di pratica se ne fa il mazzo, mi ha fatto vedere tutti i concerti che hanno fatto ogni giorno, perché finivano alle 5 del mattino di smontare, alle 11 c'erano, ripartivano perché la sera c'era l'altro concerto, ma un lavoraccio, però mi dirai, poi ti fai il mazzo d'estate e poi ti riposi d'inverno, però devi trovare qualcosa che ti dà da mangiare, non è che uno si piglia tutti i dà e poi cosa fai? Non so, noi per fortuna noi qualcosa la facciamo. Ma fate anche teatro voi? Sì. E allora qualcosina si riesce a tappare, anche se il topo del lavoro ce l'hai sempre nel periodo bello, diciamo, dalla primavera in poi, da maggio in poi, sino a settembre, quello è il punto, diciamo, di grande lavoro. Però se ci avete, vabbè, lui è molto conosciuto presso il Sardegna, non ce ne siano a livello suo, come prestazioni, professionalità, bravura e tutto, è uno, forse uno dei primissimi che ha iniziato a fare quel lavoro. Ma chi? La nostra azienda? È la tua, quella dico. Ma dimmi un po', lui c'è da qualcosa con la Rock House? E chi? R. Lui è il padrone. Proprio tutta roba sua. Lui è il fratello, Paolo, quello che suona questa azienda. Sì, no, ma io lo conosco da quando sono ragazzino, era un esempio in mezzo alla musica, hanno iniziato piano piano, poi adesso c'hanno attrezzature da milioni di euro, cose da paura, possono far accogliere qualunque tipo di musicista. Quello è il nostro lavoro. E a Mondino lo conosci? Boh, di nome no, però qua c'è, se lo vedo coso. Poi c'era, conoscevo Gianni, come si chiama? Gianni che era tecnico di luce una vita, tuo padre già lo conosceva bene, ci hanno lavorato insieme. Gianni, ma non mi viene, aiutami tu. E Le Coq, Puddo. No, non sta più lavorando da tanti anni, lui poi si è sposato, ha avuto figli, già va tutto il mondo quello lì. Gianni. Non Gianni Sanna, Gianni, tuo padre lo conosceva benissimo, che hanno lavorato insieme, ma poi ha girato tutto il mondo, era un tecnico delle luci con le contropalle e lo chiamavano anche per concerti internazionali grossi. Puglione. Hai detto bene, lui. Sì, ma non c'è più con noi lavorando. Sì, ma dico, ha lavorato tanti anni, almeno 25 anni fa, 30 anni fa. Dai. Sì. Quanti siete voi gli operatori in tutto per un concerto? Quante persone lavorate? Dipende, cosa dobbiamo fare? Siamo anche in 4, 5, 10, 14, 10 di più. Ma voi avete dato tutta l'attrezzatura per il concerto di coso? Di Neck e dell'altro, come si chiama? Adesso mi viene il nome. Non Mengone, Mengone era a Cagliari. Aiuta, come si chiama? Venga, è Neck. No, Audio Luci, Blackline l'hanno messo loro. Quello sul palco, la roba sul palco. Batteria, tastiere, tutto loro. L'audio li avete dato voi, amplificazioni, mix, tutto quanto voi. Caba. Io quest'estate sono capitato quando ero in ferie, sono andato ad Arbatax, dove c'è Arbar Festival, che è una cosa spaventosa, enorme, è una cosa che dura 5 giorni. C'era un impianto audio spaventoso, a parte l'impianto luci, impianto video, ma ho dovuto mettere gli occhiali, sono ti accettati, se riuscivi a essere scemo, amplificazione da paura, e più il palco, una cosa spettacolare, però era tutta musica, da discoteca, genere così, su DJ, cioè la Boom Mash, quello era l'unico che era un pochettino, diciamo, qualcosina di qualità, in realtà era tutta musica, tutta techno, musiche così, però c'erano degli impianti luci, c'era la Rai collegata alla Rai, in diretta, aveva fatto il coso, Rai 2, la radio, e poi ha fatto anche dei servizi alla nazionale, alla TV, ma era un impianto da paura, un impianto audio spavento, esagerato secondo me. Noi abbiamo fatto, vicino a te abbiamo fatto il placebo allo stadio. Voi l'avete fatto? E allora, raga? Pensavo ci portassero tutto loro da fuori. No, no, l'audio e le luci erano nostre. Quindi è una cosa allucinante, perché il placebo sono un gruppo internazionale, stiamo parlando di giocattolini, stiamo parlando di cose importanti. Il palco com'era? Bello grosso? Abbiamo messo il nostro, di EP l'abbiamo usato. Non era troppo esagerato, si sentiva benissimo. No, però me l'hanno detto, ma quando lo fa lo stadio è diverso, non hai ostacoli, poi pavimento tutto uniforme, non c'è riflessione in terra, anche se ormai col coso digitale corregge tutto col computer, però fare un impianto audio in Piazza d'Italia è tutta una complicazione rispetto a quello che puoi fare in coso. E questi placebo erano superiori come impianto a quello di coso, di Alghero, di Ligabue o un fenomeno simile. Mamma, che per sogno quello di Gabue. Era più grosso quello di Gabue? Sì, poi c'era il K2, stavamo usando l'acustica. È un'altra storia. Poi abbiamo, come ritorni, abbiamo usato i Martin pure. Addirittura, cioè hanno l'amplificazione, cioè come potenza acustica era superiore a quello del Vabbè Alghero, forse perché c'avevi un campo più largo, dovevi farti sentire di più. Ma scherzando stai. Certo, poco toccava questa cosa. Ma eravate al limite delle prestazioni vostre, possibilità, o potete andare anche oltre come potenza? Dipende cosa vuoi prendere. Era noleggiato quello lì. Quello che usa utilizza anche Vasco Rossi è il K2, il K1, K2. No, io parlo come intensità, come watt di coso, di potenza acustica. E potete salire oltre quel livello che avete fatto con l'Oligabue o eravate al limite delle possibilità vostre? Volendo possiamo andare anche oltre, dipende cosa monti. Tutta roba sua. Ma l'impianto l'abbiamo noleggiato da Attimo in continente. Ah, non è roba sua personale, quindi conviene noleggiarli quando sono cose così. Non è inutile che ti compri 1,5 milioni di attrezzatura e poi la tratti due volte nella vita. Sì, quelle di EB, quelle che ha comprato, già ha pagato così. Cosa c'ha lui di amplificazione, di cassa, cosa utilizza? DEB si chiamano, è un impianto tedesco. Poi quello che fa l'azienda è Martin, inglese. Ma Martin già li conosco bene, ha fatto un sacco di concerti, anche se pensavo che non le facessero più. Sono sempre roba nuova o roba riciclata? No, roba recente. No, perché ci sono anche, ce ne sono la marea adesso di marchi. Quelli che hai nominato tu è un grandissimo marchio, molto molto di qualità, anche se ci sono marchi validi lo stesso di altre cose, però ognuno dipende dalla scelta che vuol fare. Poi ormai adesso lavori tutto col computer, fanno tutto il computer, te lo manipoli e fai tutto quello che vuoi col computer. L'acustica. Ui, lascia perdere. Stiamo parlando di roba in zocca, vero? Ma i tecnici del suono se li portano loro, i plastici li hanno portati loro o li avete forniti voi? Loro fonico avevano. C'era il Digicon come mixer. Quindi, perché loro, questa gente qua, a questi livelli, c'hanno il tecnico del suono, il coso, quello tecnico luce, cioè tu gli devi dire, loro ti dicono mi serve questo e quest'altro. E tu dai, quello che c'era al concerto di coso, quello di Arbatax, delle rocce rosse. E prima c'erano dei funici bravi, niente da dire, poi ne arrivi Dughidu di Bumbamash, ma ci vedeva che era un'altra scuola, tutto un altro pianeta. Ha iniziato a sollevare, ha alzato anche i volumi, era una cosa impressionante. Io ero anni che non andavo a un concerto, cioè ho visto sì concertini così, ma concerti di quei livelli ero decenni che non andavo a vederle. Ti posso dire, è impressionante la qualità, la cura che ci hanno messo questi Lana Rey degli impianti da paura. Un fuoco proprio ti sfondava tutto, dalla prima fila sino all'ultimo posto, sentivi. Poi la cosa impressionante è che io li vedevo in televisione questi mega concerti con questi impianti di luci da paura, poi tutte le immagini con i droni facevano il giro, ti inquadravano il pubblico, guarda, una cosa bellissima, proprio ti facevano cieco l'impianto, i monitor a LED che ci avevano, ma erano assolutamente potenti. Io meno male mi ho portato appresso gli occhiali da sole, se no non sarei riuscito a vederlo. Guarda che stiamo parlando di roba di alta qualità, non stiamo parlando di roba di gipetome. Sì, assolutamente, ma io ero abituato a quei cassoni grandi ai tempi che facevano i concerti all'Acquedotto, quei mega cassoni che c'erano 250 casse che ti riempivano un muro di 10 metri d'altezza. Adesso con questi Lana Rey, con una trentina di casse tocchi più forte di quanto c'erano quei cassoni grandi che c'erano il vecchio sistema, là, quelli diciamo col sistema con subwoofer sotto, medio alti, medio bassi, che erano mega impianti con 25.000 watt. Adesso 25.000 watt si mettono a ridere con quegli impianti Lana Rey, c'è un amplificatore dedicato sulle casse eccetera. Poi raggiunto che è tutto diverso, comunque il DAB ha un suono che non è proprio roccante, cioè è giusto, ho capito, come tipo di impianto, e si sente molto bene, si sente. Invece il Martin rimane più incazzoso, più, capito? e dipende poi dai gusti musicali, c'è quello che ti piace il basso, che ti vibra sullo stomaco, quella, ma contano anche i generi musicali. Qua non è che lo potevi apprezzare molto perché era tutta musica sintetizzata, tutta fatta con i campionatori, cose, cioè non è, sentivi un po' la voce naturale, però tutti gli altri strumenti erano tutta roba, non ce n'erano strumenti tipo chitarre, flauti, cose così, era tutta fatta al computer, per cui non hai la stessa qualità che puoi avere, cioè ma la qualità ce l'hai, però se senti un concerto, per dire, di dove c'è musica rock, dove c'è la batteria, dove c'è, anche qua c'è la batteria, però magari senti un pianoforte, un violino, qua è tutta roba fatta con il digitale, boh, per cui non hai la sensazione di sentire come devi ascoltare in altissima qualità. Magari l'altissima qualità c'è, però lo strumento, tu vuoi dire, io ci voglio sentire un pezzo di pianoforte, un pezzo di violino, un pezzo di tromba, di lì non c'è, è tutto fatto con il computer. Sì, sì. Allora, noi ci hanno fatto i complimenti quando abbiamo fatto Albano con quell'impianto che abbiamo noi. Dice che per le canzoni che fa lui è adattissimo, il DAB che abbiamo noi va benissimo, fa proprio. Poi ho fatto anche Albano, l'auditorium. Ah, è chiuso, l'avete fatto Albano? Sì. Albano c'ha una bella voce, se non c'è una bella qualità sonora la voce perde tanto, poi soprattutto se è al chiuso deve fare curare tutti i particolari, tutte le riflessioni, gli echi, i riverberi, ci vuole anche le contropalle per fare quella voce. Qua ci hanno fatto i complimenti, ci hanno fatto un impianto che va veramente bene per lui. Ma voi fate anche il teatro comunale, Anto? Qualche volta sì. Ma portate voi la roba o usate quello che c'è di lì disponibile? Portiamo la roba. No, più che altro siamo la roba nostra, Capossella hanno fatto. Quello è fuori di testa, tu c'eri, l'hai fatto tu? No, per fortuna no. Mamma mia, che cazzo di merda. Ma è fuori di gabbo me quello lì, non è un musicista quello, poi può anche non piacere, anche a me molta roba non piace, però ti posso dire che quello è un musicista, non è un macco. Anda a forza di biotattazzi, a voglia che suonava. Ma allora questi Bumba Mash io non li conoscevo, ma neanche veniva a me, e ti posso dire, sono stato veramente colpito, erano veramente bravi, c'era il cantante, poi stavano raccontando, sono 40 anni che fanno musica qui, sono della zona, non so se sono di Bari o di Lecce, comunque giù delle meridionali, ma cavolo, ti posso dire, veramente bravo, fanno una specie di musica reggeggiante così, e poi hanno fatto un paio di canzoni che non sapevo l'avessero fatte lui, loro con questa, non so, Annalisa o Luisa, una cantante che ha fatto anche d'estate un tormentone, però ti posso dire, veramente bravi. Gli altri DJ erano, portavano le basi musicali, facevano un sacco di rumore, boh, non mi piaceva, però lui, ti posso dire, ne valsa la pena ascoltarlo. Io sono capitato così per sbaglio, e te ci avevi idea che non erano da secoli che non andavo a un concerto, ti posso dire, mi ha impressionato tutto, dall'acustica, soprattutto la cosa che mi ha impressionato più di tutti, questi impianti lucidi a paura, ci ha abituato con i cannoni, te dico, di quei cannoni che scaldavano con la ventola, adesso c'hanno queste lampade a led, c'hanno una luce, un'impressione potente. Ma scherzi, già non credo, via. Mi raccomando quello che abbiamo fatto noi. No, io l'ho visto, di tanto le guardo, quando, vabbè, vedo i pezzettini e dico, ma cosa avete fatto anche cantanti dell'uovo, roba leggera, dico, tipo canzoni di gruppi musicali leggeri, dai, magari non leggeri nel senso non scadenti, però di roba sarda, di gruppi sardi, avete fatto qualcosa anche di quello? A voglia, sono stato 2 giorni a Galtelli, sono stato 2 giorni lì per fare questi gruppi sardi. E anche musica sociale avete fatto? Di tutto, vemmo noi facciamo dalla cagata al concerto più grande che esista. Cosa vedo che ti ha fatto un po' di spiccioletti, Sandro Murru, quel DJ famoso, grandissimo DJ, numero 1, proprio ha fatto la storia della musica della discoteca, quello lì non so se si faccia per conto suo le serate o se si porta il service, però ha girato tutta la Sardegna ed è molto apprezzato, fa la musica della discoteca, mixa e fa ballare la gente, poi lui è un grande oratore, nel senso sa anche parlare e caricare le persone, non so se l'avete fatto voi, quelli voi lo fate? Potrebbe capitare, perché non ha grossi impianti, però fa queste feste tipo in paesini piccolini, cose così, e porta la musica della discoteca anni 80, veramente il periodo mio, quello che piaceva a me 80-90, era un grandissimo, una persona assolutamente numero uno, dai, qua ce ne sono pochi a quei livelli lì. Ok, Arturo, io ti saluto, adesso vado a mangiarmi qualcosa, grazie delle quattro chiacchiere, grazie dei controlli. Dimmi una cosa, ma c'è molta differenza di livello microfonico tra questo e quell'altro di prima? Già non credo, via. Comunque noi più delle volte abbiamo fatto un sacco di volte Gabri Ponte. Già non credo, cioè, però si sente lo stesso quello là, però questo è migliore. Ma come naturalezza, questa è più naturale o è più naturale l'altra? È più naturale l'altra. Questa è più da combattimento. No, quindi tutta quella greffa di radio, insomma, di radio di 105 o cosa, c'era tutta quella greffa, Gabri Ponte, quel gruppetto di DJ famoso, adesso non mi ricordo chi erano, 4-5, era. Poi era troppo tardi, alla fine me ne sono andato, non potevo stare fino alle 5 del mattino a battagliare questi. Lascia perdere, ero troppo stanco. Va bene, di nuovo a tu, stammi bene, ciao ciao, buona serata. Ciao ciao, comunque Gabri Ponte, questa è stata sempre noi. Ok, ciao ciao. Ciao ciao. Non puoi essere il problema non è